Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Siamo nel 2007. Io sono sempre Alessandra Fiori e qui con me c'è sempre lui, Franco Schipari. Ciao Ale, ciao a tutti. Ciao Franchi. Franchi, allora, cosa ascoltiamo soprattutto nel 2007? Ah, iniziamo sempre, come al solito, ormai è una tradizione, con la canzone più ballata, ascoltata, copiata del 2007. Canzoni e fumo ed allegria. Io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore. So che sento più caldo il mio cuore. Sì! Felicità. Ebbene sì, che tu ci creda o no, questo è Vasco Rossi con La Compagnia, perché non gli basta più fare il brano originale andare in classifica, lui va a ripescare addirittura vecchie canzoni come queste, le porte in classifica. Quindi perché? Perché Vasco piace, qualsiasi cosa lui faccia va in classifica. Questo brano in particolare, ricordiamo che è stato scritto da Mogol insieme a Donida, è stato scritto per Marisa Sannia nel 1969 e dopo venne interpretato anche da Lucio Battisti nel 1976. Ecco, Donida, quando tu pensi a Mogol pensi automaticamente a Battisti, vero? Certo. Mogol Battisti. Certo. Lennon McCartney. Più o meno, sì. Richard Jagger. E invece no. No, è così. Pensa che Mogol e Donida hanno scritto insieme 126 canzoni. E se pensi che lui e Mogol insieme, cioè Mogol e Battisti, ne hanno scritte soltanto una ventina in più, insomma, un bel canzoni. Duo. Un bel duo, sì. Un bel duo. Franchi, invece io ti devo raccontare che il 2007 è un anno di grandi cambiamenti ai vertici mondiali. Allora, partiamo dalla Francia, perché qui Nicolas Sarkozy vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente della Repubblica. Oltre la Manica, in Gran Bretagna, Tony Blair, primo ministro dal 97 al 2007, lascia l'incarico allo scozzese Gordon Brown. E anche in America Latina succedono diverse cose. Il Parlamento del Venezuela conferisce per decreto al presidente Hugo Chavez il potere di governare il paese per 18 mesi, mentre l'ex presidente dell'Argentina, Isabel Martinez de Perón, viene arrestata con l'accusa di aver infranto i diritti umani nella tragedia dei desaparecidos del 1976. Ma adesso torniamo da questo lato del mondo. In Russia, alle elezioni parlamentari per il rinnovo della Duma, trionfa, indovina, il partito di Putin. Lui. E proprio lui, Putin, pronuncia un famoso discorso. Спасибо большое, уважаемая госпожа федеральный канцлер, господин Тельчик, дамы и господа. Considero che la Russia e gli Stati Uniti siano obiettivamente ed ugualmente interessati a rafforzare il regime di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e del loro dispiegamento, dice Putin. Sono i nostri paesi, che detengono le capacità nucleari e missilistiche, che devono comportarsi come leader nello sviluppare nuove, più severe misure di non proliferazione. Ecco, era la conferenza di Monaco per la sicurezza nel febbraio del 2007 e le cose oggi, insomma, stanno prendendo un'altra piega. E qui Rachele e Antonella hanno tradotto ottimamente dal russo. Esatto, spassiba, un po' per uno. Perfette. Fantastico. Perfette. Intanto negli Stati Uniti, nei tuoi Stati Uniti finalmente, a proposito di cambiamenti, se ne annuncia uno storico. Barack Obama. Oh, thank you so much. Thank you so much. Ecco, thank you so much, è Barack Obama, senatore degli Stati Uniti, che annuncia a Springfield la sua candidatura per le presidenziali statunitense che si terranno l'anno successivo. That will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Yes, we can. Ed è il motto che comincia a risuonare ovunque, Franchi. Che non è proprio il motto suo, sai che è stato rubato questo... Raccontaci tutto. Nelle città americane si vedono troppe lattine in giro, sai, di Coca-Cola, di altre cose. Allora, che cosa hanno fatto le città? Hanno messo una tassa di 5 centesimi sulle lattine. Quindi la gente che era per strada, i senza tetto, eccetera. Gli homeless raccoglievano queste lattine, certo, questi sacchi enormi di plastica trasparenti che venivano dati proprio dai supermercati apposta, e andavano nei supermercati dove c'erano delle macchine fuori, mettevano le lattine dentro, e per ogni lattina prendevi 5 centesimi. Quando ne mettevi 30, 40, 50 ti davano uno scontrino piccolo, sì, e tu andavi dentro e prendevi dei soldi. Questo cash. Perché... Attenzione, can vuol dire lattina in inglese, can. La famosa can. Certo. Quindi le compagnie che facevano questo lavoro si chiamavano Yes, We Can. E quindi Obama... Sì, noi possiamo latinizzare. Latinizziamo, quindi lui in realtà diceva sì, possiamo latinizzare. Latinizzare una cosa del genere, beh, non Vabbè, è proprio così. Non proprio comunque, così. Comunque, yes, era... we can. Yes, vuol we dire can. Anche questo. Vuol dire anche questo. Anche questo. Senti, io ho sentito e rivedo anche Studio 1, però quello di... Non quello originale. Però tu invece nel 61, quando è andata in onda la prima puntata... Ecco, dillo. Eri alle elementari. Dillo. Mettila questa. Erano elementari, esattamente. E avevi quindi calzoni corti. Ti prego di non parlarmi di calzoni corti, che sono dei drammi della mia vita, Alessandra. Perché hai le gambe storte? Perché quando tu sei un ragazzo di 10 anni, tutti hanno i calzoni corti. Mia madre, invece, che era sarta, mi fece 3 paia di pantaloni lunghi per farmi entrare nel mondo degli adulti. Ma che vuoi di più? Ti distinguevi? Allora, sì, sono uscito e mi facevo tutto il figo con i calzoni, con i pantaloni lunghi. Certo. Soltanto che un giorno 2 paia erano sporchi, il terzo l'avevo rovinato. Mia madre disse, e allora ti metti quelli di prima. Mi misi i calzoni corti, tornai nella piazzetta e gli amici mi presero in giro per una settimana. È tornato quello grande, quello che aveva i pantaloni povero, lunghi. Povero, Un trauma infantile, non mi nominate i calzoni corti, per cortesia. Comunque, calzoni corti, Studio 1, Sanremo che arriva, però aspetta un attimo, perché prima ti racconto che il 21 febbraio del 2007 il presidente del Consiglio, Romano Prodi, rassegna le sue dimissioni. Dopo 2 giorni di consultazioni, però, Giorgio Napolitano le respinge e rimanda il suo governo alle Camere per la fiducia. Fiducia che naturalmente ottiene. E in questo 2007 proprio Giorgio Napolitano affronta, a oltre 60 anni di distanza, una tragedia rimossa e colpevolmente negata, riportandola al centro del dibattito. Si consumò nel modo più evidente, con la disumana ferocia delle foibe, una delle barbarie del secolo scorso. La congiura del silenzio, la fase meno drammatica ma ancor più amara e demoralizzante dell'oblio. Anche di quella non dobbiamo tacere, assumendoci la responsabilità dell'aver negato o teso a ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica, e dell'averla rimossa per calcoli diplomatici e convenienze internazionali. Nella stessa primavera si tiene l'ultimo congresso dei DS e poi, con le primarie di ottobre, nasce il Partito Democratico. I candidati alla segreteria sono Mario Dinolfi, Rosi Bindi, Pier Giorgio Gavronsky, Enrico Letta e Walter Veltroni, che non si confrontano in TV ma propongono uno spot. Il 14 ottobre, per la prima volta nella nostra storia, potrai scegliere tu il leader e i rappresentanti di un partito nuovo. Potrai votare alle primarie del Partito Democratico. Siamo 5 candidati, ciascuno con la sua storia. Domenica 14 ottobre ti invitiamo a partecipare alla fondazione del Partito Democratico. Valori, obiettivi, sfide del Partito Nuovo. È la prima volta che si comincia da te, non perdere questa occasione. E alla fine proprio lui, Walter Veltroni, è il segretario del neonato Partito Democratico. Dall'altra parte, solo un mese dopo, Silvio Berlusconi annuncia la fine di Forza Italia e la nascita di una nuova formazione. Adesso è importante dare vita a questa nuova creatura che sarà la protagonista della libertà e della democrazia nei prossimi decenni. Ne sono assolutamente sicuro. E poi vedremo di confrontarci con l'altra parte. Se l'altra parte avanzerà delle proposte o dirà di sì alle nostre proposte, noi saremo i primi ad essere lieti di poter trovare per il nostro paese una direzione di svolta che assicuri la democrazia, lo sviluppo, la libertà. Partito del popolo della libertà. Il popolo della libertà. Ecco, il famoso discorso del predellino di Berlusconi a Piazza San Babila, in cui annuncia, appunto, per chi non avesse sentito e capito, la nascita del popolo della libertà. Ma intanto, Franchi, all'orizzonte si è delineata anche una nuova forza, una terza forza. Il terzo incomodo. Esatto, abbastanza imprevedibile nel 2007, perché l'8 settembre in molte piazze italiane si tiene il primo Vaffa Day. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Allora vi do questa notizia. Questa manifestazione avviene in 220 città contemporaneamente. Ancora prima di aprire i banchetti per le firme, sono state raccolte, ancora prima di aprire i banchetti, 200.000 firme. Sono cose indescrivibili. Ecco, cose indescrivibili ai banchetti. Il Movimento 5 Stelle però nascerà tra 2 anni, nel 2009, e noi, Franchi, naturalmente ci parleremo. Sì, certo. Ti vedo che fremi. Vuoi arrivare dove? Voglio arrivare al festival. Ma non comincio da una canzone questa volta. No, tanto per restare in tema, o così in tema, non tema, iniziamo con dei comici. Ma che succede? Ma perché stai piangendo? Mio figlio mi ha combinato una cosa che nella mia vita mai nessuno nella mia famiglia si era permesso a fare una cosa del genere. Chi ha pagato il canone della RAI? Peggio, ma allora? Peggio. È andato a scuola, ha fatto il compito in classe, ha portato il risultato. 6,5. Bella madre. Con l'euro la vita è rincarata. Io lo vedo anche nel mio campo, nella musica. Però mio, i CD sono aumentati. La gente non li compra più. E si alimenta il mercato dei CD originali. Erano Ficarra e Picone, niente male. Non male, Franchi. Insomma, dopo i non eclatanti risultati dell'anno precedente, si ritorna alle origini, torna lui, Pippo Baudo, che si fa affiancare da una splendida Michelle Hutzinger, regia di Gino Landi, scenografia di Castelli e orchestra saldamente in pugno al fido Pippo Caruso. E guarda, vince. Dimmi. Una bellissima canzone. Faircamer and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Mix 24, musica e storia. La baranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se percorse a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Siamo nel 2007, sono Alessandra Fiori, qui c'è lui. Franco Schipani, ciao, bentrovati. Franchi, e lui è? No, prima dobbiamo dirlo che prima del break c'è stato Ti regalare una rosa di Simone Cristicchi, che ha vinto Sanremo, e poi questa è La paranza di Daniele Silvestri. Bellissima. Il tormentone assoluto di quell'anno, cara Alessandra. Il 13 agosto si consuma un terribile delitto. A Garlasco viene uccisa la 26enne Chiara Poggi. Il suo cadavere viene ritrovato nella sua villetta dal fidanzato Alberto Stasi, di 24 anni. Un stato d'ambulanza, in via Giovanni Pascoli, a Garlasco. A Garlasco? Sì. Via Giovanni Pascoli, al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cos'è successo? Lei cosa vede? Adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Ecco, era la telefonata di Alberto Stasi al 118 e inizia così una complessa vicenda giudiziaria. Nel 2015 la Corte di Cassazione conferma la sentenza bis della Corte d'Appello di Milano, riconoscendo proprio in Alberto Stasi il colpevole del delitto. L'abbiamo saputo dalla televisione perché è tutto ieri e oggi abbiamo visto televisione in continuazione. E poi il nostro avvocato. Senta, giustizia è stata fatta. Giustizia è stata fatta, finalmente, quella che volevamo. Non bisogna mai dimenticare che questa è una tragedia che ha colpito due famiglie. Questo non bisogna mai dimenticarlo. Ecco, era la voce della mamma di Chiara Poggi. Ma il 2007 è purtroppo anche l'anno di un altro atroce omicidio. È autunno, il 1 novembre, e a Perugia viene uccisa la studentessa inglese Meredith Kercher. Buongiorno, senta, qualcuno praticamente è entrato in casa sfondando la finestra e ha messo un moto di sabbia, c'è una porta chiusa. Addio, della pergola 7 a Perugia. E questa è la telefonata di Raffaele Sollecito ai Carabinieri, che viene poi accusato dell'omicidio di Meredith insieme ad Amanda Knox, studentessa statunitense e coinquilina della vittima. Con loro anche il congolese Lumumba Dia, detto Patrick, successivamente rilasciato per mancanza di prove, e Rudy Herman Guédé. Nel 2015 Raffaele Sollecito e Amanda Knox vengono assolti e lo scorso aprile Sollecito racconta la sua esperienza in un faccia a faccia con Giovanni Minoli. Voi Sollecito vi siete sempre dichiarati innocenti, ma lei racconta che ancora oggi in qualche modo sente addosso gli occhi di chi la giudica in modo diverso. Perché secondo lei? Perché molta gente è rimasta appunto al gancetto e al coltello, che comunque sono state dimostrate prove completamente false. Ma crede di aver sbagliato qualcosa lei nel suo comportamento? Beh, non è il comportamento che decide se una persona è colpevole o innocente. No, certo, ma però il comportamento poi... Vabbè, ero un ragazzo di 23 anni, sicuramente se mi fossi fatto i fatti miei e fossi andato a Gubbio le cose sarebbero state molto diverse, come se mi fossi difeso fin dall'inizio prendendomi un avvocato, nonostante ero soltanto una persona informata sui fatti, la storia sarebbe molto diversa. Senta, ma non si rimprovera nulla quindi? Mi rimprovero di essere stato ingenuo, ma a quell'età che ne sapevo dei meccanismi della giustizia. Ecco, assolti quindi Raffaele Sollecito e Amanda Knox, mentre resta condannato in via definitiva il solo Rudy Guédé per concorso in omicidio, a questo punto in concorso con ignoti, e sta scontando 16 anni di reclusione. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Mix 24, musica e storia. E dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti mai. E dalla pelle al cuore, e tu lo capirai, solo da uno sguardo tu lo scoprirai. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia, siamo nel 2007 e questa, Frankie, te lo dico, è Dalla pelle al cuore di Antonello Venditti, perché nel 2007 anche Rachele si è trasferita a Roma. Notizia fondamentale. Fondamentale, che è una di quelle che non si può non dare. Venditti che ha pubblicato quest'album. Ma in tu suono. Invece, scusami, prima, spiegami. Notte prima degli esami, prima del break pubblicitario, tu mi hai messo notte prima degli esami, che non è esattamente nel 2007. No, però insomma sta finendo il Festival Bar, però qualcosa di musicale si deve fare. Allora arrivano i Wind Music Awards. Wow. Li fanno apposta per premiare quegli artisti che hanno venduto almeno 150.000 copie di CD o almeno 30.000 di DVD. La prima edizione va in onda a giugno, la presenta Cristina Cabotto, è andata bene anche a livello di share perché ha fatto un bel 14%, e sono arrivati in massa questa prima manifestazione: Elisa, Giorgia Baglioni, Antonacci, Pausini, Ferro, Nacli, Gabue, Nannini, Cristicchi, Vasco Rossi e naturalmente anche Antonello Venditti. Ecco perché abbiamo messo il brano. Ah, ho capito, un po' nostalgico. Un po' nostalgico. Ma tu non sei a New York ancora nel 2007? Ci sono alla grande. Che succedeva? Vuoi sapere che succede? Allora senti, Beyoncé, Rihanna, Gwen Stefani, Fergie, Carrie Underwood, Nelly Furtado, capisci? Wow. Tutte ragazze nelle top 10 dei singoli di questo 2007. Allora, i testi delle canzoni. Che senti, dicono questi testi? Molla il tuo uomo, non mi capisci, sparisci, fatti i fatti tuoi, lasciami vivere la mia vita. Insomma, è così di seguito. Quindi, poi, tu capisci che quando due ragazze così si mettono insieme, l'effetto diventa devastante. I saw you again. I didn't know what you Dio le fa e le case discografiche le accoppia. Beyoncé e Shakira. Dimmi un po'. Beautiful Liar. Insomma, hai capito qual è l'andazzo, cara Ale? Lo sai, l'ho capito. Mi spaventa, pensa quanto spaventava voi, appunto. Fa paura a me. Beh, insomma, lei che ci metteva proprio no. a nostro agio. Comunque, non erano le sole. Ecco, senti. Iniziato con Rihanna, Jay-Z, Umbrella e When You're Gone, Avril Lavigne. Comunque. Perché Frankie. Comunque. Quanta cattiveria, ma non c'è anche comunque, un po' di dolcezza. Comunque, dimmi. Una voce fuori dal coro c'è. One Alicia Keys, una voce fuori dal coro. Oh, Frankie. Un po' di romanticismo. Un pochino, no, perché fa paura tutta questa aggressività. Era repressa, la posso dire, prima o poi. Grandissima. Pensa se trovassimo un equilibrio tra affermazione e dolcezza, non sarebbe bello? Donna, come sei bucolica oggi. Hai visto? Mi faccio paura. Cioè, arriva un po' di sole e tu mi cambi così che la notte e il giorno. No, è solo un tentativo, come Frankie. Come piacevole essere in studio Frankie, con te. Frankie, il dicembre del 2007 invece porta con sé un gravissimo incidente, perché nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 8 operai dello stabilimento delle acciaierie ThyssenKrupp di Torino sono investiti da un getto di olio bollente. 7 di loro perdono la vita. Pronto, sono della ThyssenKrupp in corso Regina. Senti, è successo un incendio, ci sono 3 o 4 ragazzi bruciati. 4 bruciati o carbonizzati? Non sono carbonizzati, si muovono, abbiamo cercato di spegnerli senza vestiti, senza niente. È esploso qualcosa? Ma ha preso fuoco un impianto, qua c'è della carta, dell'olio, di tutto. Aspettate, sta arrivando l'ambulanza, sta arrivando, già qua l'ambulanza. Sta arrivando, è qua. Ecco l'atroce testimonianza di quella notte tra il 5 e il 6 dicembre. Nel 2016 la Cassazione ha confermato le condanne nei confronti di 6 tra manager e dirigenti della ThyssenKrupp, ritenuti responsabili di omicidio colposo, omissioni di cautele antinfortunistiche e incendio colposo aggravato. Certainty. Erano il Linkin Park, What Have It Done e What Goes Around, Justin Timberlake. Hai capito, insomma, i ragazzi delle hit sembrano proprio averci preso gusto a farsi trattare male. È diventata più che una moda, secondo me. Comunque, mentre lì si complicano la vita, dalle nostre parti invece c'è qualcuno che la vita non se la vuole proprio complicare. Perché per me, lo sai, sei musica nell'anima. Insieme a te non cadrò, non cadrò, no. È per te che non mi stanco un attimo di vivere. Comunque andrà dentro di me, tu vivrai e suonerai. Ricorderò e comunque e so che non vorrai. Chiamerò perché tanto non risponderai. Come far ridere adesso, pensarti come un gioco. E capendo che ti ho perso, ti scatto un'altra foto. Perché piccola potresti andartene dalle mie mani. Ed i giorni da prima lontani saranno anni. Paolo Meneguzzi, musica, un po' il vincitore morale del Festival 2007, date le grandi vendite di questo brano. E poi ti scatterà una foto, pezzo che era già stato inserito nella colonna sonora del film Ho voglia di te, uscito nel 2007, che è la continuazione di Tre metri sopra il cielo. Franchi, però non mi sembra come che dicevi, gente che non si vuole complicare la vita, non mi sembra che se la semplifica, mamma mia. Almeno sullo schermo sì, mamma mia, è l'apoteosi del nostalgico. Cioè, come mi lasci e ti scatto pure una foto così la riguardo. Vabbè, Franchi, bello però farti una foto così mi ricordo quanto mi hai trattato male, quanto mi hai trattato male. No, tu fai voodoo poi. Senti, vincitore morale dicevi invece, ma se invece dovessi dare un premio analogo in generale alle nostre classifiche, a chi lo daresti? Beh, guarda, secondo me se lo aggiudicherebbe questo brano, che comunque, a parte la mission molto importante, ha venduto tantissimo in tutto il mondo e anche qui da noi. Living Darfur di Matt Fix, ecco questo video che è stato finanziato da Mick Jagger, è stato ambientato proprio in un campo profughi con lo scopo di raccogliere fondi per il Darfur e attirare l'attenzione delle Nazioni Unite. È stato pubblicato nel 16 settembre del 2007, che è stato poi chiamato proprio ufficialmente il giorno globale per il Darfur. Ho capito, Franchi, e dal Sudan allora ci spostiamo un attimo in Afghanistan, perché a marzo è qui a Kabul che il giornalista italiano Daniele Mastrogiacomo viene rapito da un gruppo di talebani. Il mio nome è Daniele Mastrogiacomo, sono giornalista di Repubblica, mi trovo qui in Afghanistan. Oggi è lunedì 12 marzo, sono le 8 del mattino qui in Afghanistan e come vedete mi trovo in buone condizioni, insomma, fisiche e comunque in vita, per fortuna fino adesso. Mi trovo sotto custodia, sono stato arrestato da un gruppo di talebani che ritiene che siamo entrati con altri due colleghi afghani illegalmente nel loro territorio. E quindi mi rivolgo al governo italiano e al presidente Romano Prodi affinché possa fare del lutto e agire in tutte le direzioni affinché ci possa ottenere presto la nostra liberazione. Ecco, dopo 14 giorni di prigionia, Daniele Mastrogiacomo viene liberato e può tornare in Italia. Invece non ce la fa l'agente del Sismi, Lorenzo Dauria, di 33 anni, rapito a settembre, sempre in Afghanistan. Lui rimane gravemente ferito durante il blitz deciso per liberarlo e muore nell'ospedale militare di Roma. È il Il 6 settembre a Modena, cara Alessandra, muore all'età di 71 anni Luciano Pavarotti, che insomma la voce che ci ha rappresentato negli ultimi anni un po' in tutto il mondo con grande successo. Il 6 settembre? Sì. Il giorno del mio compleanno. Mi dispiace tanto. Sì, anche a me. Franchi, il 2007 è un anno di gioie per lo sport italiano, perché ai mondiali di scherma di San Pietroburgo le fiorettiste italiane Valentina Vezzali, Margherita Grambassi e Giovanna Trillini occupano tutto il podio, vincendo rispettivamente l'oro, l'argento e il bronzo. Però, purtroppo il 2007 è soprattutto un anno di dolori per lo sport, perché il 2 febbraio, in occasione del derby Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra le tifoserie che porta alla morte dell'ispettore di polizia Filippo Raciti. Il giorno successivo viene sospeso giustamente il campionato. Adesso spero solamente che la tua morte induca tutta la società ad attuare dei cambiamenti, perché tu sei e sei sempre stato un eroe. E ti giuro che verrà fatta giustizia sull'accaduto. Papà, io non riesco a stare senza di te, perché noi due siamo uguali. Ecco la testimonianza straziante della figlia di Filippo Raciti al suo funerale. E il 4 aprile il Senato italiano dà il via al decreto antiviolenza. Ma l'11 novembre, successivo a questo episodio, c'è una nuova tragedia. 118 Arezzo. Ah, buongiorno, autostrade. Buongiorno, dimmi. Senti, la pattuglia mi richiede un'ambulanza con un medico di Alcasello d'Arezzo. Non mi chiedere altro perché non sono riuscito a capire qual è il problema. Quindi non si sa se è un incidente, cosa è successo? No. Quello che ho sentito io, perché ho rintracciato un richiedente, sì, dovrebbe essere una ferita d'arma. Ecco, l'abbiamo sentito, non siamo in uno stadio, siamo in un autogrill a Badia Alpino, vicino ad Arezzo, dove muore ucciso da un colpo di pistola un tifoso laziale, Gabriele Sandri, DJ romano di 28 anni. A sparare l'agente della polizia stradale Luigi Spacca Rotella, condannato in via definitiva per omicidio volontario a 9 anni e 4 mesi. Patient, take that. Senti che hai ritirato fuori ti piace, take that. Ti piace questa così? No, patient, take that. Beh, era classifica, cioè no, sì, fuori. Sì, sì, non perché, amo insomma, boy band. No, però avevano molti fans in Italia, sì, all'epoca, sì, quindi dobbiamo sì dirlo. Ecco, allora, prima abbiamo dato il premio al Darfur, adesso io vorrei invece dare un premio alla leggerezza. Ah sì? Il mi premio piace alla leggerezza, ecco, lo darei sicuramente a loro. Me Wonder, Maroon 5, pensa a questo brano, Alessandro, è entrato in classifica al 64esimo posto quando è stato pubblicato e in una sola settimana è arrivato al numero 1. Beh, e ti dico anche un'altra cosa, è uno di quei brani che mi sono già messo nella mia pennetta estiva per cui devi guidare per andare da qualche parte. Come senti, brano leggero. Leggero, come brano leggero da guida, questo è un brano da guida, senti che bello. Lo sai che ti ci vedo sulla Salerno Reggio che guidi con Santander? Non mi dire non la Salerno devo dire, Reggio non la Calabria devo perché devo fare proprio quella. Appunto, proprio io quella ti dico. E io già lo so ti che ci Lago vedo Negro sentendo i Maroon 5. Sì, ma guarda, con questa musica posso anche aspettare al Lago Negro e zone limitrofe. Ah, puoi restare anche fermo. Sì, va rimango bene fermo, aria condizionata e Maroon 5. Senti, Franchi, invece non è per niente leggero il rapporto che il 22 ottobre la Confesercenti rende pubblico, appunto il 22 ottobre, nel quale la mafia viene presentata come la massima azienda nazionale per fatturato. Però il 5 novembre viene arrestato Salvatore Lo Piccolo, capo di Cosa Nostra e latitante dal 1983, insieme a suo figlio Sandro Lo Piccolo e ad altri mafiosi latitanti. Intanto ci avviciniamo alla fine dell'anno. E il 21 dicembre, sai cosa succede? No, ne ho la più... Qualcosa succede. Qualcosa succede. Perché se no non me lo chiedereste. Bravo, non sai, bravo. Che cosa succede il 21? Succede qualcosa? Sicura, cosa che succede? Che i 9 paesi dell'Unione Europea, li vuoi sapere? Dimmeli, dai. Me li sono scritti. Vai. Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta. Entra in vigore il trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Franky. Allora, siamo arrivati al momento siamo del arrivati recupero. Al momento del recupero. Qualche brano della Hit 2007? Guarda, io mi affido al Master Chef Mix, ma non so neanche chiamarlo, Alessandro Chiappini, perché questo brano, secondo me, merita. Niente paura, ci pensa alla vita, mi han detto così. Niente paura, si vede la luna perfino da qui. Niente paura, Ligabue, niente è paura un Alessandro, niente paura Alessandro, magari. Niente paura. Franky, siamo quasi in chiusura, ma noi prima facciamo un salto al cinema. Sicuro? Troviamo il parcheggio fuori? Lo troviamo? Garantito, ci penso io. Ci pensi tu? Tranquillo. Quindi cinema con parcheggio? Andata. Vai. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. La colonna sonora di Juno, te lo ricordi? Film meraviglioso, bellissimo, meraviglioso. Che affronta un film difficile, molto leggero e difficile, complesso, perché affronta il tema delle gravidanze non desiderate negli adolescenti per di più, e in questo caso la ragazza decide di tenere il figlio per poi affidarlo ad altri, quindi non semplice rendere con leggerezza una cosa del genere. Però Franky, nello stesso anno esce anche questo. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Scusa Alessandra, ma dimmi, perché Franky, metti Non è un paese per vecchi e guardi me? No, c'è un motivo? Non mi permetterei mai. C'è un mai. Motivo? Non lo so. Comincio a dubitare di questo tuo... Comunque, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei grandissimi fratelli Coen. Oh. Tra l'altro questo libro, tratto dall'omonimo romanzo di Cormac McCarthy, vincitore del premio Pulitzer, che nel 2008, e naturalmente il film, vincerà l'Oscar come miglior film, oltre ai premi per la miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista. Franky, lo sai a che momento siamo adesso? Al momento di Antonella Migliaccio Show. Devo dire una cosa, che sono ormai settimane che non ne sbaglia uno di pezzo. Brava Antonella. Ormai Franky sono si è affezionata a questa cosa. Ma no, perché sono un fan. Tu, sei perché, un fan. Perché lei ci pensa, lo studia, non te lo secondo dice. Secondo me lo sai che e fa, poi prima le ne... sceglie per te. Dici? In realtà sì. Marco, ma davvero? Mi sta sì. facendo così? Sì, le sceglie per te. Allora vediamo che cosa oggi ha scelto per me. Antonella Migliaccio ha scelto una canzone che ci porta dritti in spiaggia, perché si chiama A me ricordi il mare ed è di Daniele Silvestri. Franky, noi ci rivediamo e ci riascoltiamo nel 2008. Intanto io saluto, ciao a tutti da Franco Schipani. Ciao da Alessandra Fiori e ascoltiamo A me ricordi il mare di Daniele Silvestri. Ciao. A me ricordi il mare. E non per le vacanze che abbiamo fatto insieme, ma per il tondeggiare tra il gesto di chi afferra e quello di chi si trattiene. Ci sono validi motivi per cui dovrei evitare di dirtelo, ma dal momento che mi scrivi dirò che l'ho capito da subito. Perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene e invece non va. E se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di là e te lo dico e tu mi dici ma va. E ancora a me succede che va bene e invece non va. E se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di là e te lo dico e tu mi dici ti va. Ricordi il mare, non per i riflessi, per il sugo andato a male, il qualunquismo dei discorsi sotto l'ombrellone, il sudoku che non torna è quello che era scritto appena, e